Roma Trastevere, 11 febbraio 1970. Care Luterio, il lettino di ferro battuto che collaborò ai miei sogni infantili oggi assiste alle veglie di una donna delusa. Piove, Luterio, e le tendine d'acqua di là dai vetri gareggiano con le tendine di nylon di qua dai vetri. Piove e io penso che le gocce della pioggia non siano che le lacrime di tutte le donne deluse, da Eva fino a me. E penso anche che sei un cretino con la lettera maiuscola, Luterio. Non si scatena un putiferio solo perché mammina ti cade in braccio, poverina, sempre tua. Roma Parioli, 12 febbraio 1970. Cara sempre mia, l'immagine del letto che assiste alle veglie di una donna delusa mi piace, brava, ma mi piacerebbe ancora di più se il letto in parola avesse quattro ceri accesi ai quattro angoli e se le veglie alla donna delusa, ora non più delusa, fossi io a farle vestito di nero. Sarò anche cretino ad arrabbiarmi perché mammina mi cade in braccio, ma vorrei vedere un altro al mio posto, tenuto conto che mammina è figiata ad olio su tela 2 metri per 1,40, completa di cornice e mezzo cristallo, è piuttosto pesante e contundente. Ciao. Ho scritto. Mi fa ridere il misterioso ron ron che disturba la cittadinanza. Di a tua madre che smetta di russare e tutto sarà risolto. Eleuterio. Roma Trastevere, 13 febbraio 1970. Care Luterio, sorianoide, pur restando nell'ambito gattesco ironizzo e disprezzo. Abbiamo parlato di te con mammina, anzi lei ha parlato e io ho ascoltato. Ho incominciato ad arrossire soltanto dopo le prime 4-5 parole del discorso che riguardava te. 4 asterischi, il che significa che il discorso suddetto è sconsigliabile anche agli adulti. Gli adulti. Io penso che gli adulti non sono che bambini i quali, per ragione di età, si vergognano a fare quello che fanno i bambini. Perciò giocano ai birilli, ma li chiamano bowling. Mi dispiace che a caderti in braccio sia stato solo il ritratto di mammina. Se avessi avuto a portata di mano l'originale, allora sempre tua. Roma Parioli, 14 febbraio 1970. Irrimediabile sempre mia. Ieri sera mi annoiavo tremendamente. Sentivo nostalgia di te. Ho invitato a cena l'amico Moccagatta e mi sono fatto leggere da lui un racconto scritto da Tata Giacobetti. Beh, non ci crederai. Ma il suddetto racconto, letto da tanto lettore, e per di più partendo dalla ultima parola indietro fino alla prima, è risultato molto più coerente di un tuo normale discorso. Torna, anche perché non sto bene. La pelle mi dà fastidio, specialmente alle giunture. E ogni volta che mi chino o muovo un dito sento sinistri scricchiolii. Ciao. Ho scritto. La portinaia ha chiarito il mistero della mia malattia e degli scricchiolii. Per errore ho versato nell'acqua del mio bagno una certa quantità di amido invece dei soliti sali aromatici. Forse anche per questo ero pallidissimo. Eleuterio. Roma Parioli, 15 febbraio 1970. Caro Eleuterio, micione! Eccomi, sono tornata. Perché appena tu mi chiami, io torno. Se tu non mi avessi chiamata, sarei tornata lo stesso, perché questa è anche casa mia. Ma sarebbe come se non fossi tornata. Invece, quando mi chiami, torno per tornare. Il bambino della portinaia mi ha aiutato a liberare la vasca da bagno dell'amido che ci avevi buttato. Gli ho comprato un gelato da passeggio. E io penso che il gelato da passeggio non è altro che un lecca-lecca da tenere nel freezer. Penso anche allo stupido motivo della nostra ultima lite. Io ero lì che pensavo, quando tu hai gridato come un ossesso. Ehi tu, accidentaccio, incosciente! Eleuterio, se mi stai chiamando usa un altro tono. Ehi tu, incosciente, che cosa hai combinato stamattina nella libreria? Stamattina ho solo messo un po' d'ordine nel tuo studio. Per mio studio intendi quella stanza nella quale, tranne il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il sabato, io posso entrare liberamente? Sì, Eleuterio. La stanza cioè nella quale tu abitualmente bivacchi con le tue indescrivibili amiche. Eleuterio, bivaccare è un verbo che non mi piace, specialmente quando lo usi parlando delle mie amiche. Ma che c'entra? Il verbo in parola non ha niente di bovino. Te lo giuro, l'ho usato in perfetta buona fede. Non credo. Comunque nella libreria ho messo in ordine i tuoi libri. I miei libri erano in ordine. No, stonavano i colori e io li ho intonati. Scusa, come? Che hai fatto? Ho intonato i colori. Ho messo un po' di nero, poi un po' di giallo, poi di nuovo una macchia nera. Ma perché? Perché ai tempi dei tuoi genitori non esistevano televisori? Se tuo padre e tua madre, appena sposati, avessero avuto la possibilità di guardare e vivere insieme, si sarebbero certamente divisi. E io adesso non sarei qui a spiegarti che i miei libri non li devi toccare. Eleuterio, non gridare! Invece grido! Posso sapere come hai sistemato i 12 volumi della mia ultima enciclopedia? Enciclopedia? Sì, quei libri grigio palla, come dici tu, dove li hai messi? Ah, uno qua, uno là, per fare da stacco tra nero e nero. Me lo ha consigliato mammina. Perché il destino si accanisce così su un poveraccio che non ha mai fatto niente di male, tranne un matrimonio sbagliato? Perché? E perché hai messo quell'orribile ritratto di tua madre proprio di fronte alla mia scrivania, si può sapere? Mi è sembrato una cosa carina, Eleuterio. Non vi vedete mai? Così almeno quando lavori alzi gli occhi e la vedi. E io non la voglio vedere. Leva quel quadro e rimettici quello che c'era. Se insisti lo faccio, anche subito e anche se non condivido. Ma perché? Perché tiri giù di nuovo l'enciclopedia? Li tiro giù per metterli sotto il quadro e salirci su, se no non ci arrivo. E tu sali sulla mia enciclopedia nuova? Tanto non la leggi mai. Hai comprato l'enciclopedia e a letto leggi i libri gialli, poi se io la uso ti arrabbi. Ma non mi arrabbi, impazzisco. Levati di là. Lo tolgo io quel quadraccio. Parla bene di mia madre, se no, guarda, vedi, eh? Il quadraccio orribile come pittura e come soggetto. Lo levo e lo sfaccio. Trattalo bene, Eleuterio, se no... Lo sbuco, lo squarto, lo spezzo. E io non voglio... La testa, la testa. Hai sfondato, mammina, con la testa. Sei un bruto, me ne vado. Ricordo tutto perfettamente, ma quando rientrerai farò finta di niente. Ciao. Ciao, Eleuterio. Non ho ancora finito di mettere in ordine, scusami. Spolvero questo divano, poi vado subito a mettere in ordine i tuoi libri, caro.